come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poi... Senti questa, Parenzo, senti questa, Lo dice il mitico psichiatra. Come si chiama quello che va sempre da Vespa? Il professor Paolo Crepè. No, ma che c'entra Bruno, che è criminologo? Professor Paolo Crepè, noto psichiatra e scrittore. Il terremoto non bisogna guardarlo solo in maniera negativa, perché esso può anche rappresentare un'occasione di rilancio per le città. Io ne ho viste molte che dopo un sisma sono rinate, con restauri e riqualificazioni che le hanno fatto molto migliorare e crescere. Professor Crepè, professor Crepè, di qualcosa anche tu, Parenzo, di qualcosa. Ricoveratelo subito, professore. Dimostra di essere vivo, dimostrami di esistere, di essere vivo. E stai zitto, vabbè. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Certo, oggi c'è ancora la vicenda Buffon, il capitano della nazionale italiana, che tiene banco. Che vergogna. Cosa che vergogna? Cosa? Che vergogna, proprio. Cosa che vergogna? Ieri l'avete difeso, era lì a pontificare contro i magistrati e poi va a fare... No, si suppone che sia andato a fare delle scommesse. Ecco, bravo, 1,5 milioni di scommesse. Si suppone e gli avvocati suoi dicono no, una movimentazione di denaro, sì, in tabaccheria. Ma non ho capito, l'hai già condannato? Non ho capito, hai già condannato Buffon? No. Hai già deciso che Buffon scommette illegalmente e va condannato? No, ma siccome gli condanno la morale che lui ieri ha fatto, senza spiegarci... Non ha fatto nessuna morale, era contro la morale. L'attacco che lui ha comunque fatto ai magistrati. Comunque, una cosa è chiara. Ieri Buffon aveva pronunciato queste parole. Buffon, le cose si sanno dopo 5 minuti. Perché se io vado da un interrogatorio a parlare con il PM, dopo 10 minuti nessuno deve sapere quello che io gli ho detto. E invece in Italia si sa dopo 5 minuti, non dopo 10. E quella lì la vergogna. E chissà come mai oggi una nota riservata della Procura di Torino a quella di Cremona viene resa nota che cosa? Che c'è un'indagine della Guardia di Finanza su una movimentazione di denaro tra il gennaio 2010 e non so che mese, sempre nel 2010, di circa 1,5 milioni di euro da Buffon a un suo amico a Parma. Come mai proprio oggi viene fuori questa nota riservata, caro Parenzo? Come mai? Come mai viene fuori proprio oggi questa nota riservata? Come mai? No, ma il signor... La realtà è questa, che Buffon si è permesso di parlare sulla magistratura e subito la magistratura si è vendicata e si è mossa. Diciamola tutta, è così. Non è che si è vendicata, stanno verificando i movimenti di denaro. Stiamo verificando i movimenti di denaro. Tu ti fermi a queste cose formali. Come mai è uscita fuori questa nota riservata oggi? No, spiegami, come mai è uscita fuori questa nota riservata? Ma ieri uno dei... Come mai è uscita fuori questa nota riservata? Uno dei simboli italiani, perché il capo del portiere della nazionale... In ogni caso Buffon non è indagato né a Cremona né a Torino. Benissimo, benissimo. Poi se ha scommesso non si poteva fare, venga condannato, espulso, cacciato, eccetera. Se è vero che ha fatto le scommesse, non potendolo fare lui che è il giocatore, perché... Ma quello siamo d'accordo tutti. Io sto dicendo, come mai proprio oggi, dopo che Buffon ha parlato ieri, ha detto certe cose, vergogna per le notizie uscite? Mi pare talmente evidente. Meno male, anche tu ammetti che non è un caso il fatto che sia uscito. Ma non è questo il punto, però. Non ti scandalizzi, benissimo. Le fughe di notizie ci sono sempre state. Non ti scandalizzi, benissimo. anche per Buffon, e anche per Buffon. Fermo, innanzitutto come al solito non si sente niente in questo collegamento. Il 2 giugno tiene banco, il 2 giugno ancora. Bonanni questa mattina da Alessandro Milan. La parata del 2 giugno ricorda quelle sovietiche. Bonanni, addirittura sovietiche, Bonanni. Parate militari con tanto di cingolati, con tanto di missili o con tanto di persone che sfilano in quel modo, obiettivamente il ricordo di tutti noi è solamente un ricordo di parate sovietiche. Non c'è neanche in Europa un posto dove si dà quel, quindi si poteva ben rimuovere, secondo me. A parte che non è vero, perché c'è la parata del 14 luglio in cui ci sono, in cui c'è l'esercito, cingolati, carri armati e quant'altro. Poi sicuramente ci saranno altre occasioni in cui l'esercito sfila nelle capitali europee. Magari non se lo ricorda Bonanni, secondo me ci sono. E Alemanno in disaccordo con Napolitano? Sindaco di Roma, 2 giugno in disaccordo con Napolitano. Cosa pensa delle polemiche sulla parata del 2 giugno? E su, appunto, ormai, gli aiuti che potremmo... Ormai prendiamo atto di quella che è la decisione del Presidente della Repubblica, non dobbiamo aggiungere null'altro rispetto a questo, abbiamo punti di vista diversi, adesso prendiamo atto di quella che è stata la decisione e basta così. Prima intervista di Grillo a un giornale italiano, quella che verrà pubblicata domani dal Corriere della Sera, alcune anticipazioni. Grillo ripropone questa storia assurda, demagogica, populista, inutile, non dico pericolosa perché è inapplicabile, della gogna per i politici, dei tribunali del popolo, i tribunali pubblici, non si capisce per gli errori del passato oppure per il futuro. Comunque lui vuole giudici popolari estratti a sorte che giudichino i politici e qualche volta li mandino addirittura ai lavori forzati, dice, oppure ad altre pene socialmente utili. Ma è una cosa che aveva già detto più volte, sentiamo, anche recentemente. Cercheranno di scappare, noi non vogliamo farli scappare, noi vogliamo processarli, ma veramente un processo pubblico e una giuria di cittadini estratti a sorte, l'ho scritto oggi, ma è una cosa non violenta, estratti a sorte, incensurati, dovranno decidere la pena che dovranno prendere, perché non possono andarsene, abbiamo scherzato, devono tirare tutti fuori i fondi, tutti i soldi, e poi decideremo quando avremo i soldi che lavoro sociale fargli fare. E meno male che era una cosa non violenta, lo sottolinea pure, una cosa non violenta. Ma non è che c'è solo la violenza con i bastoni, il giudizio popolare, insomma, stile Pol Potti, lo ripeto sempre, una roba polpottiana. Bene, 800 24 00 24, ci sono tante altre cose da farvi ascoltare, tra cui, prima dell'ospite, Fava, deputato della Lega, sempre a proposito del 2 giugno. Sentiamo una sparata di Fava. Cosa significa cerimonia in tono minore? Cioè non ci saranno le maggiorette, cos'è che abbiamo eliminato? Non ci saranno i cavalli, cosa vuol dire? Li ammazzano? Li eliminiamo? Cioè di cosa stiamo parlando? Ci sono le frecce tricolori, non ci sono le frecce tricolori, come se le frecce tricolori ci costassero solo quando girano sui nostri cieli. Eccoci qui con l'avvocato professore Carlo Taormina, buonasera. Buonasera. Come andiamo, professore? Andiamo benissimo. Come sta? Bene, bene. Senta, lo chiede. No, perché è arrivata una botta questa cosa di Rignano. Lei era avvocato, la sentenza di Rignano, lei era avvocato di alcune tutti. Famiglie, hanno assolto tutti, via, finito. Sì, è stata una sentenza veramente incredibile. Perché incredibile? Incredibile perché sicuramente non risponde alla realtà delle prove che sono state raccolte. Beh, come nella realtà? Lei lo dice perché è avvocato di alcune famiglie coinvolte. No, lo dico obiettivamente. Io mi sarei persino acquietato rispetto ad una sentenza che avesse avuto dei problemi a condannare determinate persone tra quelle imputate. Ma sulla formula prescelta del fatto non sussiste quando abbiamo elementi probatori di danni fisici subiti dai bambini e di danni psichici certificati dal Bambin Gesù qui a Roma, sì. Mi pare veramente che sia stato un po' troppo. Scusi, onestamente. Ma hanno assolto tutti, professore, ma al di là di questo, adesso ci sarà l'appello eccetera, lei pensa che addirittura ci sia stata una difesa dalla pedofilia? Ma guardi, non è la prima volta che se ne parla, non è la prima sentenza che esprime questo tipo di tendenza. Cioè? C'è stata una sentenza a Brescia, c'è questa, ce ne sono state molte altre. C'è chi ha assolto, ha difeso i pedofili. No, ma il problema è questo, guardi, il problema è questo. Ha legalizzato la pedofilia. Il problema è questo, che è un modo indiretto per legalizzare la pedofilia, perché il problema è che a fronte dell'opinione comune che i bambini dicono sempre la verità, nelle aule di giustizia questa concezione, questa idea non passa. Ma non dicono sempre la verità i bambini, chi l'ha detto? Ma guardi, normalmente questo è il luogo comune con il quale spesso ci confrontiamo, sta di fatto che questi bambini hanno spontaneamente fatto delle dichiarazioni, hanno fatto riferimento a fatti precisi, hanno fatto riferimento a persone dalle quali hanno... Scusi professore, però io voglio capire una cosa da lei, secondo lei questa sentenza legalizza la pedofilia, sì o no? Beh certo, se continuiamo su questa strada, e cioè di ritenere che le testimonianze dei bambini ogni volta che parlano sono inattendibili. Ma non è vero, vanno confrontate con la realtà, se poi ci sono le prove, se ci sono altri riscontri. In questo caso non sono state ritenute attendibili. No, non è assolutamente così. Però professore, una volta io le dissi, ma questa cosa di Lignano, sapevo che lei era avvocato, ha visto, insomma, alla fine si concluderà in un nulla di fatto. E lei mi rispose: ma l'hai lette le carte? Lei le ha lette le carte, io le ho lette le carte, lei non le ha lette le carte, i giudici le hanno lette, ma non basta leggerle, bisogna non soltanto capirle, ma anche e soprattutto c'è questo problema tecnico insuperabile. Ma al di là di questo, i bambini quando parlano dicono la verità o non dicono la verità? Vorremmo trattarli tutti allo stesso modo, qualsiasi testimone, piccolo o grande, deve essere scandagliato per capire se dice la verità. In questo caso è stato scandagliato e non è stato ritenuto credibile. Allora, tanti bambini che dicono tutti la stessa cosa, che indicano, tutti la stessa persona, come quella che ha esercitato... Ma era un'inchiesta piena di buchi, professore, era piena di buchi l'inchiesta. Ti hanno indicato e persone, questo lo dite voi, però ma non lo dico io, lo dice questa sentenza. No, lo dice certo, ma infatti traffico, un attimo solo, torniamo subito, traffico. Allora, intanto mi sembra chiara una cosa, che un giocatore di calcio può scommettere su tutto tranne che sul calcio, attenzione, per cui potrebbe avere scommesso, se ha scommesso Buffon, potrebbe avere scommesso anche, ne so, sul tennis, sulla pallacanestro, eccetera eccetera, per cui il regolamento è questo, cioè non si può scommettere sulle partite di calcio, ovviamente. Tra l'altro Buffon era stato già prosciolto per un'altra vicenda ed aveva ammesso di aver scommesso fino al 2005, quando poi le scommesse furono vietate. Che succede? Sì, certo. Walter da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Mi hanno richiamato ieri sera, ho detto una cosa che non dovevo dire, parlo di terremoto perché sono di Bologna, però i miei sono di Finale Emilia, conosco benissimo la zona. Nel 29 ci fu ugualmente un terremoto abbastanza forte. Però non torniamo così indietro, qual è il punto? Ma il punto è molto semplice, che è peggiorata la situazione, che ho sentito Giuliani da voi due sere fa. Allora? Sbaglio? Sì, e Giuliani parla delle previsioni che io da una vita sto seguendo i terremoti come costruttore, ma attenzione, non do nomi, non voglio fare pubblicità. E mi capitò già nel 64 di costruire, dietro richiesta di un cliente, la prima casa antisismica, dopodiché... Però Walter, scusa, vada un po' al sodo. Perché Giuliani sta dicendo un qualcosa e mi fermo qui. Che cosa sta dicendo? Che io spero veramente che sia come la previsione del tempo. Cioè? È sulla buona strada, secondo me. Poi adesso tutti dicono no. Chissà perché, non è che viene ignorato perché... Io vorrei dire questo. Va bene, Walter. Che sarebbe una cosa... buona, diciamo così. Ma che cosa sarebbe una cosa buona? Non ho capito. Che cosa sarebbe una cosa buona? Pronto? Che cosa è una cosa buona, Walter? Walter, che cosa sarebbe una cosa buona? Quella delle previsioni. Anche se quella delle previsioni, bene. Se fosse possibile prevedere un terremoto, guardi che uno vincerebbe il premio Nobel e sarebbe nominato il genio dell'umanità. Non si preoccupi. Sì, cosa posso dirle? Perché non lo so cosa può dire. Il Giuliani sì. è quello che fu denunciato, se la stessa persona sì. che lavora nel CNR sotto la galleria del Gran Sasso sì. e fu denunciato per procurati allarme. Bene, Walter, grazie. Avvocato Taormina, ma Buffon ha fatto bene a fare quelle dichiarazioni sul pareggio, meglio due feriti che un morto. Ma guardi, stranamente ogni volta che si parla di calcio scommesse Buffon si mette subito in agitazione e in movimento. Lei è colpevolista, già. No, lei ha ricordato un precedente che ha riguardato proprio Buffon, per cui credo che sia un dato col quale bisogna regolarmente confrontarsi. Poi c'è stato l'immediato intervento quando si è trattato del coinvolgimento di Conte nell'associazione per delinquere relativamente al periodo in cui era al Siena. No, dico, chi gli ha detto, qualcuno lo ha rimproverato di aver fatto la difesa all'ufficio di Conte, poi ha continuato con questa operazione dell'attacco, peraltro assolutamente condivisibile, fatto alla magistratura, che indubbiamente è un colabrodo come al solito quando gli fa comodo, e quindi sì. con questo ha accolto sicuramente. Però oggi subito gli è arrivata la punizione. Certo, ma questa noi ormai siamo consapevoli che qualsiasi cosa si muova nei confronti della magistratura, poi c'è il modo per farla. Però a me sembra che Buffon stia portando avanti un'operazione, diciamo così, di provocazione, quasi che abbia, diciamo, che desideri che vengano fuori un po' tutte le cose, piuttosto che vengano, diciamo così, un po' per volta, ecco, insomma, con contagocce. Ecco, sembra, Però scusi un attimo, ma è la cosa incredibile è che ieri Buffon dice una cosa e oggi esce subito fuori questa informativa che riguarda questo trasferimento di denaro, cioè è una cosa pazzesca. Non è pazzesca. Se l'è chiamata, da una parte se l'è chiamata, perché la magistratura così si comporta, Parma parla e Torino risponde, ma però io non so se questo sia un fatto sgradito a Buffon, perché probabilmente si tratta di un modo attraverso il quale mettere in pubblico quella che è la situazione che lo può riguardare direttamente o indirettamente, e quindi apprestare le sue difese. La teoria di Taormina perché Buffon parla, cioè lo fa apposta per. Comunque molte persone mi scrivono, avvocato Taormina, che lei ultimamente sembra quello delle cause perse, Cogne, poi adesso la vicenda Rignano, ogni volta dove va lei c'è una sconfitta. Guardi, Cogne, se lei pensa che sia una sconfitta, una condanna a 16 anni per l'omicidio di un figlio, faccia lei. Per quanto riguarda Rignano, ripeto, si tratta innanzitutto del primo grado, quindi attendiamo la sentenza per poter fare l'appello. E poi guardi, ci sono tanti problemi intorno alla giustizia italiana, che certamente se noi dovessimo fare i calcoli su quelle che sono le sentenze che condividiamo e quelle contro. Ma qui il processo non andava nemmeno fatto, questa è la realtà. Ma cioè, questo lo dice lei. Molti dicono che il processo non andava nemmeno fatto. No, sai che le dico? Se quel processo andava fatto bene, questo è il problema. Purtroppo quel processo. Ma non c'erano prove, prove. Ma le prove, innanzitutto le prove c'erano, ma comunque le prove vanno cercate e raccolte. Allora lì c'è stata una procura della Repubblica che è andata allo sbando e ufficiali di polizia giudiziaria assolutamente non adeguati rispetto al tipo di investigazione che doveva essere fatta, e quindi l'hanno fatta male, e su questo io non discuto, per carità, però questo non significa che successivamente poi i fatti processuali. Cioè lei è convinto che ci siano stati casi di abuso? No, io non sono convinto, lì ci stanno gli elementi medico-legali che sono stati calati nel processo. Ho capito, però ma un giudice ha detto di no. Vedremo adesso che cosa dirà la Corte d'Appello quando faremo l'impugnazione. Abbiamo il giornale radio. Ecco Eccoci, eccoci qui, 800 24 00 24. Peccato che non sei qui, caro Parenzo. Peccato, peccato, so. Perché ritroviamo un amico. Ti ho che portato un libro. Che mancava da un po' di tempo, anzi che manca da un sacco di tempo. E come al solito noi lo contattiamo dall'aldilà, insomma, dall'aldilà. Sempre in maniera, come dire, gentile, sempre in maniera corretta, senza offendere nessuno. Però insomma, ogni tanto piomba da noi e ci fa piacere perché è una voce storica della come dire, no, del nostro paese, eccetera. Il famoso avvocato Agnelli. Buonasera, avvocato. Caro Beppe, sono particolarmente felice di essere qui nella radio di Confindustria. Anche l'amico David è particolarmente gradito. Scusi, ma avvocato... Mi trovo divertente. E ironici, bravi, senta, ragazzi. Ma ha visto quello che succede nel calcio con le scommesse? Anche Buffon che ha detto quelle cose. Lei che insomma è stato. Non me ne parli. Sono arrivate con Pozzo, con gli altri di Superga, una cosa tremenda. Ci ha sconvolto questa situazione. Le notizie sono arrivate anche sono lassù. Sono arrivate anche qua. Ai miei tempi queste cose non potevano accadere. Beh, qualcosa. Noi vincevamo lealmente le partite senza usare il denaro di Agnelli. Senza usare la Juventus era molto potente all'epoca, certo. Una grande squadra è sempre stata. Gabriele Albertini, eccoci qui. Buonasera, come sta? Bene. Sono un vecchietto in discreta forma, spero. Insomma. Beh, un vecchietto in discreta forma, non esageriamo. Beh, mi impressiona il fatto che tra 65 anni si è. Nella statistica degli anziani, no? Beh, ho capito, qui ci sono vecchietti, caro Albertini, che sì, in realtà sì. Vabbè, soprattutto nelle banche fanno delle serate pazzesche con burlesque, con travestimenti alla ma l'ha letta quella cosa? Sono pettegolezzi, dicerie. No, ma non sono pettegolezzi, no. Ma lei l'ha letta quella cosa lì della signora Polanco che si sarebbe travestita da Boccassini? Questa l'ha letta, l'ho letta, sì, l'ho letta. Ma lei non ha mai trovato qualcuno che si è mi travestito? Mi incuriosisce questa avrei gradito vederla, cosa poteva essere con la toga, parrucca rossa e poi reggicalzi, sì, sotto, ce l'ha raccontato cose, anche a noi, deve sì. Essere qualcosa del genere, parrucca rossa, toga e sotto occhialini niente, sotto no. Ha detto un intimo. Un filo interdentale al posto delle mutandine e poi un reggicalze osè, una cosa così. Beh sì, insomma, beh, curioso. Però la vedo un po' già, sì, no? Beh, la lei quale perversione ha? Mi ricorda qualcosa, non so bene che cosa, ma mi ricorda qualcosa. Però no. Ce l'ha raccontato proprio qui alla Zanzara. Sentiamo, oltre che in tribunale, sentiamo la signora Polanco. Come si fa a travestirsi da Boccassini? Mi spieghi? Prendi la parrucca rossa, sì? Un paio di occhiali da vista, però senza gravi, sai, normali. Poi? E la toga. E la toga? Dove l'ha presa la toga? Dove si affittano i costumi. E sotto la toga che cosa aveva? Ho detto tipo, sai, reggiseno, mutande, tutte così burlesche, molto lavorato. Questa è la signora Polacco. Io sono però curioso di una cosa. Soprattutto dettagli, mi raccomandi i dettagli. Scusi Albertini, però il diavolo sta nei dettagli. Qualcuno si è mai travestito di fronte a lei? Non ha queste perversioni lei? No, devo dire no. Che perversioni ha? L'ex sindaco di Milano, europarlamentare del PDL. Non sono sul lettino dello psicanalista. Beh, qui è come stare un po' sulla Beh, ma io insomma mi rifiuto. È una casa di vetro. Ma ce l'avrà una è una casa di vetro, sì, vedo che questo studio effettivamente è proprio tutto vetro, molto elegante, bellissimo, nel grande edificio dell'architetto Piano, uno dei miei preferiti. Come dire... Avrà una perversione, ma se è una perversione si tiene per sé e per che pochi ne so, intimi, i piedi, no? L'intimo. No, ho una particolare, diciamo, mi piace particolarmente osservare. Sì, osservare, guarda, è un guardone. Io, ecco, no? Sono un amatore di Venere Callipigia. Scusi? Calos, dalle belle natiche, ecco, trovo che il fascino del corpo femminile si concentra, anche perché se è bello lì è bello tutto. Scusi, se lo dico in maniera volgare, mi piace come il culo. Tinto Brass. Mi piace il culo delle io donne, non uso queste espressioni. Il sederino. Sono un appassionato di Venere Callipigia, ecco. Soprattutto quello. Ecco, questa è la mia perversione, se si può dire, più che una perversione. Una comune, diciamo, una cosa ma delle donne o anche degli uomini? No, adesso questa cosa l'abbiamo già chiarita, abbiamo no, anche fatto lo scherzo a Bossi. No, quello no, quello è chiarito. Che altro devo dire? Però, devo raccontarvi che mi piace la Patuzzi. No, ma infatti ha già detto tutto. Scusi un attimo, però è come se di fronte a Berlusconi qualcuno, una bella ragazza, si travestisse da Boccassini. È come se qualcuno di fronte ad Albertini si travestisse, non so da chi, da Penati, da qualche suo grande nemico. Cioè, lei chi è che potrebbe travestirsi di fronte a lei? Un suo grande nemico. Non ho trovato un nemico Penati, ho trovato un nemico quello che ha fatto. Sì, d'accordo, però che come dire, no, per l'istituzione che governava, certo, ma lui è una persona amabile e simpatica. Mentre Berlusconi mette di fronte a sé una bella donna e la fa travestire da Boccassini perché ha questa perversione, no, di poi di magari di possedere un nemico. Lei chi metterebbe di mi fronte? Mi trovo impreparato, confesso che no. Forse. Ma no, no, no, nemico, no, no, abbiamo avuto qualche battibecco, qualche punzecchiatura reciproca, però diciamo, insomma, la discontinuità, no, in questo libro lo racconto bene. Dopo ne parliamo. Intanto abbiamo la marchetta, titoli, non potevo evitare. No, la marchetta ci sta. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La terra continua a tremare in Emilia, da mezzanotte 51 scosse, la più forte alle 17 nel Modenese, 15.000 sfollati ma vicini alle loro case anche per il timore di sciacalli che diffondono falsi allarmi. Col TG3 a Concordia, 9.000 abitanti fino a 4 giorni fa, ora un borgo cancellato dal sisma dell'altro ieri. Ci vorranno 15 anni per mettere in sicurezza il suolo dell'Italia, dice il ministro Clini, che annuncia un piano nazionale di 41 miliardi di euro sostenuto al 60% da investimenti privati. Visco, la crisi sarà lunga, avrà costi per tutti, meno tasse e spese per la crescita, sale lo spread, Monti, nonostante gli sforzi l'Italia a rischio contagio. Al Senato il primo via libera alla riforma del lavoro, la CGIL è un pasticcio, alla Camera governo battuto su un emendamento alla legge anticorruzione. Calcio scommesse, indagato anche Bonucci, Prandelli, non difendo 40 sfigatelli, controlli della finanza sulle scommesse vietate di Buffon, non è indagato, ha puntato 1,5 milioni di euro, aveva denunciato per stalking l'ex fidanzato, lui l'ha uccisa davanti alla figlioletta di 5 anni, poi si è barricato armato nel Duomo di Cervia. Eccoci qua, a proposito delle vicende di Buffon, oggi l'allenatore della Nazionale Prandelli ha detto non posso difendere, lo avete sentito anche dai titoli del TG3, non posso difendere 50 sfigatelli. Sentiamo Prandelli. Se proprio vogliamo entrare solo per un attimo in questa situazione, per quanto mi riguarda mi sento un po' in imbarazzo in questo momento difendere magari certi sfigatelli, ecco. Sfigatelli nel senso che sono 40-50 ragazzi che sono dei sfigati, dai, parliamoci chiaro. Ma non è che Buffon abbia difeso degli sfigatelli, ha dato fastidio a Buffon un certo atteggiamento della magistratura, notizie uscite prima, cose sapute con largo anticipo, telecamere presenti prima dell'arrivo della polizia, tutto questo, cioè, ha espresso, ha detto delle cose ragionevoli che però siccome vanno contro un certo modo di pensare hanno provocato una reazione e soprattutto hanno provocato una reazione dei magistrati che oggi hanno diffuso questa roba dell'indagine della Guardia di Finanza su sue presunte scommesse da 1,5 milioni. La realtà non è così, vabbè, adesso attacca lui dicendo che non è così. Perché? No, non è così perché evidentemente era la coda d'Italia, tant'è che voglio dire mi pare evidente quello che è emerso oggi da queste ultime notizie che hai dato, no? Cioè che cosa è emerso, scusa? Cioè la coda di, voglio dire, cioè questa movimentazione di denaro che allora dovrà essere provata. Sì, benissimo. Scusami. Ma è la notizia che esce. È questa nota della Guardia di Finanza. Che secondo me si chiama coda di paglia. Anche se ma si coda di paglia Buffon. Di chi? Ma scusa, coda di paglia di chi se non ha parlato oggi Buffon? Di chi parli? Non ho capito. Coda di paglia di Buffon. Ma che c'entra di questa cosa? Ma che sapeva? Ah, ma tu presupponi. Cioè, dai, Buffon sapeva di questa cosa qui, dunque se ne è uscito con. Allora, cioè, si è voluto suicidare allora mediaticamente. Sapendo che c'era in ballo forse questa cosa, dice, io intanto dico che c'è una fuga di notizie, cosa che ormai dice chiunque. Vabbè, Berlusconi sono 10 anni che dice sta roba, ma è chiaro o no? Cioè mi vedete una abbastanza evidente. Bene, siamo al delirio, siamo al delirio, va benissimo, siamo al delirio, vabbè, non c'è problema. Ma qual è il delirio? Il delirio è di uno che sa che magari c'è un accertamento in corso, perché non è che lo scopre oggi dai giornali, no, l'accertamento. Va bene, e mette le mani avanti. E mette le mani avanti. Parenti, vabbè, la teoria di Parenti. Ma anche legittimamente, non sto dicendo nulla di stratosferico, mi pare. Legittimamente, se tu hai un accertamento il giorno prima, sei buffon e non sei un cretino qualunque, non sei un Parenzo qualunque, convochi una conferenza stampa e dici: ecco la solita vergognosa fuga di notizie. Vabbè, è nulla di nuovo. È abbastanza singolare, abbastanza strano che questa informativa esca oggi, diciamo la verità. Ma è ovvio che è strano. Va bene. Ma se uno sa che c'è un accertamento in corso, Va bene, allora ci sono degli accertamenti in corso. Certamente Buffon, secondo me, non sapeva assolutamente nulla di questi accertamenti. Okay. Sempre la Zanzara 800 24 00 24. Senta Albertini, qui c'è qualcuno ha in mente di fare per il 9 giugno un Formigoni Day addirittura in appoggio al governatore Lombardia. Non è un po' esagerato il Formigoni Day? Dopo le foto di Vasto in cui uno dei triumviri è il governatore Vendola con un'indagine a suo carico personalmente. Penso che c'entra Vendola, mi scusi. No, dico, ci sta il Formigoni Day. Un Formigoni Day. Ci sta se il collega governatore Vendola, sì, che ha indagini a suo carico personalmente e per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, nonché assessore della sua giunta in prigione per reati, viene all'apoteosi del triumvirato con Bersani e con Di Pietro come uno dei leader della sinistra, allora ci sta anche l'esultanza per il Formigoni Gay, che tutto Day, non gay. Day, sì, che non ha. No, ho detto gay, non so. Sì, ha detto sì, mi sembra di sì. Qua mi continua. Beh, perché anche su di lui avevano detto qualcosa. C'era stato qualcuno che aveva fatto un elenco di deputati tendenzialmente. Mettendoci anche Formigoni. Ricordavo questa cosa. E comunque dicevo, se ci sta questo giorno di solidarietà, appunto, in relazione ad altri fatti ben Formigoni più gravi che sono ignorati. Cioè, si chiedono le dimissioni di Formigoni, mentre per Vendola è una specie di interviste, cose. Ci sta un Formigoni Day. Bisognerebbe organizzare un Formigoni Day. Se l'altro invece che il Formigoni Day, cioè Vendola every year, cioè sempre e comunque, allora ci sta anche da questa parte, no? Lo metto in relazione a questa stranezza. Di organizzare un Formigoni Day in appoggio a che cosa? A un'aggressione? Al buon governo della Lombardia, che prescinde da fatti e circostanze che lo riguardano. Ma nessuno mette in dubbio che possono essere il cosiddetto buon governo della Lombardia. Qui si vuole trascinare in un episodio, una serie di episodi, diciamo, che lasciano alcuni sospetti, che fanno riflettere, che per cui forse sono in corso delle indagini, non in capo a Formigoni, ma magari a persone con cui ha collaborato. Si vuole mettere insieme questo fatto a una critica al suo governo e ai vent'anni. Veramente, la sanità lombarda, sono venuta ad osservare dei tecnici dell'amministrazione Obama quando pensavano di utilizzare questa esperienza. Sì, ma non è questo in discussione. No, io lo rimarco, perché sembra che si butti via il bambino con l'acqua del bagno. C'è la borsa, torniamo subito. Va confermata questa cosa. Eccoci, 800 24 00 24. La Zanzara riprende con Claudia da Genova. Buonasera, Claudia. Buonasera, Cruciani. Dica. Le devo dire che, come al solito, la penso al contrario di lei. E va bene, ma siamo tutti tranquilli qui, soprattutto ce lo aspettiamo, non c'è problema. La sento sempre volentieri, proprio perché non la pensa come me, almeno è più bella la cosa. No, e dicevo che secondo me Buffon non c'ha solo la coda di paglia, c'ha proprio tutto di paglia. Lei è della teoria di Parenzo che sapeva di questa cosa qui? Sicuramente. Ma certo. Ma quando mai? Ma è legittimo. Ma dite delle robe incredibili, dite delle cose assurde, senza senso. Anche perché, Cruciani, ma è più facile per Buffon parlare o per la magistratura un attimo solo Buffon? No, che Buffon, sì. C'è Buffon? Il suo lapsus già fa il giro del web, Albertini. Il Formigoni Gay invece del Formigoni Day. Ma lei non ci ha mai creduto a queste voci su Formigoni? No, non ho mai creduto. Da quando mi sono visto con nessuno Formigoni, né un compagno né una compagna. È abbastanza strano. Con qualche compagno si è visto. Con qualche compagna così, in diciamo, foto però. Amichevolmente. Certo, però con qualche compagno. Cioè con chi si è unito alla, diciamo, il suo compagno è sempre stato comunione. Lui vive in una comunità, no? I sì. Memores Domini hanno è una comunità laica, ecco, per cui stride, una sorta di stile conventuale. Non troppo però, si è visto. Nelle vacanze. E in alcune vacanze, magari però solo negli ultimi anni, non so dove ha fatto le vacanze prima. Magari andava a Lanzo d'Intelvio in una villetta della Compagnia delle Opere. C'è un contrasto tra i Memores Domini e le ville miliardarie e le barche, mi dica la verità. Come colpo d'occhio sicuramente, cioè, sono vacanze diciamo da milionario e poi ci sono altri stili di vita che invece sono austeri, certamente. Questo è una contraddizione. Posso negarlo, povertà però... e castità, dicono i Memores Domini. Sulla castità non la questio, Presidente, non entro tra le lenzuola del celeste, io figuriamoci se entro tra le lenzuola di qualcuno. Sulla vicenda della povertà, caro Albertini, allora se è così e questo basta per criticare non solo lo stile di vita, l'immagine che ha, la sua leadership, diciamo dal punto di vista dell'eticità del suo comportamento, è stata scalfita, cioè è finito indubbiamente, come governatore, diciamo la verità. Di queste cose si parla e non sono a suo vantaggio, però ciò non toglie che come governatore, lei è già in rampa di lancio. Ma di che cosa? Le piacerebbe fare il governatore? Devo dire che mi piacerebbe fare l'astronauta, sì, come la rampa di lancio, sì. Mi piacerebbe. Non ho più il fisico, né mai l'ho avuto, ma neanche il QI degli astronauti. 150, arrivo a 141, ma non a 150. Allora, Claudia, che diceva? Dico che gli italiani sono stufi di queste cose. Ma che di cosa? Che Formigoni se ne vada anche lui, come tanti tutti altri, via, tanto, tagliamo la testa anche a Formigoni. Caro, lei no, Cruciani, che è simpaticissimo, però basta veramente. Ci hanno rotto veramente. Cosa? Alla grande. Che ci hanno rotto? Lo dico in genovese. Ma lo dico in genovese. Ma Rutu Belin. Com'è dire... hanno rotto Belin? Ci hanno rotto, vabbè, abbiamo capito il Belin, abbiamo capito tutti, abbiamo capito tutti. No, basta. No. Raffaele da Pistoia, lei è molto simpatica, Claudia. Raffaele. Sì, buonasera. Io volevo fare una riflessione. Pronto? Sì, ci siamo. No, una riflessione rapidissima per Cruciani, sul fatto degli sprechi del 2 giugno, che ne ha parlato tanto. Ma non c'è nessuno spreco, cioè è il 2 giugno, è la parata del 2 giugno. No, o uno la fa o uno non la fa, ci sono due strade, oppure uno la fa in maniera sobria, come ha detto Napolitano. Comunque, la parata c'è. Se poi uno pensa di doverla abolire, aboliamola pure. Ma non la mettiamo in collegamento con il terremoto, è inutile evocare anche il 76, peraltro ci furono centinaia e centinaia di morti. Posso parlare? Sì. Certo, no, e allora un'altra cosa, tanto per questo non è un argomento. Riferito all'ambulanza, che voi spesso chiamate, io lavoro da tanti anni nella disabilità grave, nella psicosi, nella parafrenia. No, non la vogliamo offendere, Raffaele, è un gioco, Franco, volevo dire, il fatto di non aver mai vissuto problemi gravi del genere, con famiglie anche molto serio il problema. Io faccio il lavoro, è il mio mestiere, ma... e ci vivo anche a contatto familiarmente, quindi esco anche dalla professione. Io cambierei disco, proverei tipo chiamo la finanza, chiamo carabinieri. Però Raffaele, può darsi pure che noi cambieremo disco. Esprimere il pensiero di molte famiglie che vivono una cosa molto grave, che è quella di chiamare l'ambulanza per un problema di psicosi. Però scusi Raffaele, guardi, ho spiegato più volte questa cosa qui, è un gioco, non c'è nulla di offensivo. Ma cambiate gioco, ho capito, adesso decideremo noi quando cambiare, se ed eventualmente cambiare gioco, posto che non offendiamo nessuno e non credo di offendere nessuno ed è un gioco e ce ne sono tanti, le assicuro che non c'è nessun tipo di problema, cioè non c'è nessun intento di sbeffeggiare chi naturalmente viene preso da un'ambulanza per motivi gravi, abbia pazienza. Ma chi state chiamando? No, questo è Parenzo che fa finta. È Parenzo che fa finta, sì. C'è una ascoltatrice, credo. Sì. Ma non risponde tanto. Non ti preoccupare, non ve lo dico. Ma sapete che è anche bella la radio, perché puoi fare immaginare quello che succede. Esatto, sì, esatto. Questo è il maestro Cruciani, capito? Intanto perché... Albertini fra poco ci annuncerà la sua uscita dal PDL, fra la poco sua candidatura, il grande scoop di questa sera. No, rampa di lancio per l'astronauta. Fra poco che esce questa notizia. Beh, insomma, il PDL Albertini è morto, ha perso un po' di voti dal 36 7 al 17 sono 20 punti che in termini in coma, relativi è più della dire metà. In coma? In no, coma. È in grave crisi, sì, in grave coma, crisi. Non, so, non è da solo però, c'è un insieme di situazioni. No, non è da solo, d'accordo, però è in coma. Diciamo che noi abbiamo messo del nostro per aggravarla, insomma, per una in serie coma, di cose. In coma, è un po' in coma. Si può questa dire. È un'espressione giornalistica che lascio alla sua abilità, alla tua, anzi, no, cosa facciamo? Tu, lei, alterniamo, come ci viene, perché fuori ci diamo del tu qui. Diamoci del tu. Continuiamo con trasparenza. Ecco, no, dicevo che indubbiamente c'è una grossa crisi a cui si cercherà di porre come un'espressione un po' fortina. Perché è molto democristiano lei? Mi è democristiano questa sera, molto cauto. Io ho votato democristiano, liberale, Forza Italia, non ho votato più a sinistra della Democrazia Cristiana, persino i repubblicani mi sembravano pur votabili un po' troppo a sinistra, quindi ho votato liberale, democristiano. PDL oggi non lo voterebbe però. PDL, oggi ho votato PDL, oggi, ma vediamo che PDL si però forma da qui a quando ci sono le elezioni. In questo momento lo voterebbe o è invotabile? Beh, no, non mi fate dire cose che non è il caso di affermare in questo momento, nel senso che non c'è ancora una votazione col PDL. D'accordo, ma se oggi questo PDL è votabile o no? Questo PDL qui? PDL è in evoluzione, è in evoluzione. Ricordiamoci cosa diceva Lao Tse, no? Ciò che per il bruco è la fine del mondo, per il mondo è una farfalla. Magari esce una farfalla, non quella di Belen, dico quella del PDL. Le metafore di Albertini. Bisogna che mi rifugi un po' nelle metafore, qua ma mi state assediando. Dia un voto a Pisapia dopo un anno, però serio, non da militante del PDL, dia un voto, io lo so che voto darebbe lei. No, per adesso è un voto insufficiente, ma no, e lo danno anche gli elettori. Ma no? Cioè, dal 37 al 17 vuol dire che abbiamo perso più la metà della metà dei nostri consensi. Scusi, a Pisapia, dia un voto a Pisapia. No, a Pisapia come persona e sindaco do la sufficienza. Ah, sei, dai un sì, do la sufficienza. Come giunta e come insieme, no, lì sono direi un bel 5 pieno. Beh, 5 pieno tendente a qualcosa di più basso. Addirittura. Però come persona no, lo salvo perché mi sembra molto impegnato, determinato, non legato alla sedia o al potere, insomma, mi sembra un onesto cittadino che cerca di fare meglio il primo. Comunque cittadino. Un 6, voto 6. Sì, pieno, anche di più. Voto 6. Cioè, anche sei anche quanto? Sei più? Sei e mezzo. È anche un po' sfortunato perché vive in un momentaccio, no? Però quindi... sei e mezzo. Sì, lui personalmente. Per Milano però, è stato un colpo di fortuna questa cosa, avere Pisapia come sindaco. Io ho votato Moratti. Moratti ho torto collo. Diciamo. Una volta che il candidato diventa il sindaco della città e di tutti i milanesi. Lei e quindi gli si dà mezzo. Fiducia a chi ha questa responsabilità. Lo dico anche se io sono in un'altra area politica e mantengo le mie idee, le mie appartenenze, però rispetto la buona volontà degli altri e confermo che la vera differenza, la sola vera differenza è tra le persone e non tra le appartenenze o gli schieramenti. Io ho trovato persone con cui sono andato molto d'accordo e che stimo anche nel campo di Agramancio. Ho litigato e avuto conflitti pesanti, tanto da arrivare alla rottura, con persone del mio partito che si sono comportati in maniera scorretta verso le istituzioni. Devo dire che quasi tutti quelli con cui ho litigato poi hanno anche litigato con la giustizia, sia di una parte che dall'altra. Quindi forse avevo un po' ragione ad avere qualche motivo di contrasto con loro. Senta, ma Berlusconi che futuro potrebbe avere? Mi dica, per esempio, padre nobile. Senta questa cosa di Crozza che lo immagina. Che lo immagina il padre nobile. Presidente poi faccio, della faccio un esempio sentiamo. Che potrebbe piacere padre anche nobile è come dire non dire niente. Padre nobile significa in una teca quasi, come hanno fatto. Come hanno fatto anche un po' di cattivo gusto, questo un po' macabro, come dire questo presidente scherzo. Di una fondazione, no? Cioè, che vuol dire Crozza prima, Crozza. Promulga le leggi, concede la grazia, nomina. Fermo, cos'hai detto? Concede la grazia. Concedo io? Concede la grazia. Cioè, faccio uscire la gente di galera io? Ma sei sicuro? È legale? Sì, signor presidente. Figata. Beh, sarà contento Lele, anche Emilio, anche Cesare, anche Marcello. Devo dire a Ghedini di preparare una lista di nomi, poi mandiamo due tir a prenderla. risata la fa bene, la risata di Berlusconi. Il resto non è perfetto, per essere un imitatore professionista potrebbe, ma la risata è uguale. Adesso sentiamo invece il Berlusconi by Albertini dopo i 30 secondi di pubblicità. Non lo so fare Berlusconi. Sì, un po' sì. No, posso fare altri. Eccoci, 19.47, Claudio da Prato, buonasera Claudio. Salve Cruciani, buonasera. Sì. Senta, mi volevo rifare a quella critica che ha fatto Beppe Grillo, quel discorso. Ma i tribunali del popolo, i tribunali del popolo per giudicare i politici, ma di no, che stiamo parlando? Ma i tribunali del popolo, allora come si deve fare noi a salvarci da questa gente, Cruciani? Me lo ma dica che lei. C'entra, io scusi Claudio, potente, non bisogna salvarsi da nessuno, ma soprattutto non bisogna... Ma come da nessuno se tutti i giorni ci sono scandali, ci hanno rubato soldi, li devono riportare i soldi e poi devono essere giudicati, ma non dal popolo. Però, mi scusi, ma che li può giudicare? D'accordo, come si deve fare noi a sentire tutte le notizie? Ora ha rammentato anche Crozza, no, ieri sera. Non si può più ridere delle cose che vengono raccontate, perché quando uno è consapevole di quello che ci hanno combinato e hanno fatto, la prima reazione, secondo lei, Cruciani, quale sarebbe per un onesto cittadino? E ho per capito, la violenza ma... che viene fatta tutti i giorni a un pensionato che non ce la fa arrivare a fine mese? Non è violenza questa, Cruciani, no, secondo lei? Ma non è violenza. Ma quale giustizia sommaria? La giustizia gli ci vuole, deve riportare tutti i soldi che hanno rubato e mal tolto. Ma guardi che non è... loro e tutte le persone. Se qualcuno ha rubato dei soldi, se qualcuno ha rubato dei soldi o ha sottratto dei soldi come allo Stato. Come sei, Cruciani? No, dicendo? Se qualcuno ha rubato dei soldi allo Stato e ha sottratto dei soldi, non ci sono i tribunali del popolo. Ci sono i tribunali che magari funzionano come in maniera un po' scalcagnata, funzionano. Insomma, sappiamo quella situazione della giustizia italiana, ma non è che esistono i tribunali del popolo di Grillo. No, abbia pazienza, no. È una follia, no, è una cosa senza senso. Cruciani, i cittadini estratti a sorte che dopo giudicano, mandano la gente ai lavori forzati. Ma di questo, che parliamo? Cruciani, io non voglio dire questo. Ma diciamo allora, delle cose serie. Come si deve fare a giudicare e a punire questa gente? Ma questa gente qui punita per cosa? Soldi. Esiste il codice penale. Soldi a noi. Ma io veramente è una cosa incredibile, cioè non... Come è incredibile? Cruciani, lei è un giornalista, voglio dire, è una persona estremamente... Ma non capisco il punto, cioè esiste il codice penale, non esiste un'altra giustizia, quella di Grillo. Non esiste la giustizia di Grillo. Si fanno tutte le leggi loro, a loro favore, si sono fatti, è una massa, è una banda bassotti che si sono creati delle condizioni per essere tutelati. Prima con cioè ora... Lei sta parlando in generale della casta, dei privilegi, della politica, eccetera, eccetera. D'accordo, ma... Facciamo noi a liberarsi di questa gente? Ma io non so come ci si libera in tanti modi, facendo battaglie. Pronto? Sì, la sento. Sì, uno si libera da queste cose con la battaglia politica, ma non con i tribunali del popolo, la Pol Pot. Abbia pazienza, su, ma di che parliamo? No. E però allora, se lei vuole la ghigliottina ed è assetato di sangue, va benissimo, però nessuno la seguirà. C'è una giustizia per condannare questa gente qui, che impunemente si presenta alla televisione come formiloni e dice delle cazzate e noi bisogna starla a sentire e crederci, Cruciani, dice quello che dice delle cazzate, dipende cosa dice naturalmente, alcune volte secondo me le dice, altre no. Ci reputa proprio delle persone di un livello culturale bassissimo, dei cretini che bisogna stare a sentire, un imbecille a quella maniera che parla di quelle cose inverosimili. Grazie. Intanto calcio scommesse, escono delle notizie, Atalanta meno 2 punti da scontare nel prossimo campionato, 25.000 euro di ammenda e patteggia con 2 anni di squalifica anche l'ex capitano Cristiano Doni. Prime sentenze. Atalanta meno 2 punti nel prossimo campionato, oltre ai 6 che ha già scontato quest'anno. Carlo da Milano. Eccomi. Però i formigoni dei io non lo posso sentire, perché non me l'aspettavo da lei il formigoni dei. Io l'ho detto in relazione ai fastidi, agli altri. Apoteosi di altri. Però governatori che sono in cioè andrebbe più inguaiati per di lui. Formigoni? Ah no, adesso questo è un argomento che non ho preso in considerazione, perché non so neanche se si farà, se c'è una decisione di farlo. Io stavo solo facendo una riflessione su come viene trattato Formigoni rispetto ad altri governatori. Allora, fino a quando le cose non saranno più equilibrate, mi sembra che sia giusto mettere un peso sulla bilancia dell'equilibrio. Ma dovrebbe considerare lui l'idea di candidarsi per esempio alle elezioni il prossimo anno e così lasciare la Lombardia, secondo lei? Una cosa da considerare, vista la situazione politica in Lombardia, che è abbastanza compromessa, diciamo la verità, insomma, con inchieste e cose che riguardano il governatore. Dovrebbe considerare l'idea di candidarsi e lasciare. Quello che è compromesso è un'immagine pubblica che è sicuramente intaccata da queste critiche, certo, queste cose. Però, come accade in tutte le circostanze mediatiche, poi la realtà dei fatti può prevalere sull'apparenza. Quello, cioè adesso si sembra vedrà. Che si, allora, però ci si rimette da qui a un anno, o si lascia una posizione anche quando è compromesso un'immagine pubblica. Da qui pubblica. A un anno si vedrà che cosa succede. Per adesso è al governo, alla sua maggioranza. Ma lei non consiglierebbe a Formigoni di lasciare e di candidarsi alle elezioni del 2013? Io consiglierei a Formigoni di difendersi, come sta facendo, dalle accuse che gli sono state poste, da porre in evidenza gli aspetti di correttezza, se ve ne sono e ve ne sono, del suo comportamento e di continuare a governare la regione come ha fatto. Ma non sarebbe meglio candidarsi nella prossima primavera alle politiche e lasciare la Lombardia perché la situazione... Vediamo che situazione c'è tra qui a un anno. Anche delle elezioni in una regione importante come la Lombardia, è l'ottavo PIL d'Europa, se fosse da sola la Lombardia per il suo PIL, a seconda delle statistiche, dal 22 al 28% del PIL italiano equivale all'ottavo PIL d'Europa. Vabbè, questo che c'entra? Ma questi sono dati che c'erano. È un fatto traumatico andare ad elezioni anticipate in una regione come questa, con tutto quello che consegue per la rottura di un equilibrio di governo, per gli interventi che sono in corso, non è che possono essere per il programma politico in un caso e traumatiche in un altro. Cioè, le elezioni sono sempre un trauma. Ma non è vero. Si fanno se sono necessari o alla naturale scadenza, se no è un'anarchia, non è una democrazia. È dimostrato che la giunta Formigoni è una giunta logorata, travolta dagli scandali. Cioè, le piace il registro delle coppie di fatto che vuole fare Pisapia? Una bella iniziativa, no? O no? Io ho un altro, penso che ci siano delle altre priorità rispetto alle coppie di fatto. A Milano, sì, ma non solo a Milano, ma anche nell'Italia e altrove. Ciò non toglie che si possa considerare, con attenzione il fatto che anche le coppie di fatto abbiano dei loro diritti, che peraltro hanno già, devono semplicemente regolarseli tra loro. Come mai nel PDL non c'è mai un coming out, un bel coming out da parte di un omosessuale? Non c'è una... possibile che in tutti i partiti ci sia qualcuno? Nel PDL non c'è mai nessuno? Non ho idea, non ho mai considerato questo aspetto. Si vede che forse non ci sono, non so, oppure hanno pudore a dichiararlo, non ho idea, non è certamente una linea politica questa della enfasi sulla abitudine sessuale omosessuale, certo, che ci appartiene, insomma, mentre altri partiti quasi lo frequentano questo mondo come un emblema. Ma Montezemolo è un po' libertà. Bruciato secondo lei politicamente? Ma secondo me non si è ancora incendiato, nel senso, quindi per bruciare non si è ancora acceso, perché dichiara, adesso si è un po' più avvicinato a un'ipotesi di formazione politica, perché l'ha dichiarato. Sì. Lei aderirebbe a Italia Futura, no? Beh, alcune dei progetti, anche la persona, lo conosco da molti anni, quando ero presidente di Federmeccanica, il capo del personale della Ferrari era nel consiglio direttivo e sono un estimatore del suo lavoro di imprenditore e anche come persona è una persona gradevole e credo che... Lei auspica un accordo tra Montezemolo e Berlusconi? Mi piacerebbe, sì. Quando auspico che vadano insieme i moderati... I famosi italiani, moderati. I moderati. Io quando, ormai, mi piacerebbe che ci fossero delle iniezioni... Lei non si modera più. Prendo la pistola. Pubblicità, torniamo subito. Grandi ospiti qui alla Zanzara, caro Parenzo, 800 24 00. Sì, il cerchio magico ha fatto dei gravi danni. Mi dispiace perché io mi ero accostato alla Lega per fare il leader dopo Umberto. Adesso non ho più il posto dove andare. Ma non l'aveva detto a nessuno questo qua? Lei dice si era appoggiato alla Lega per fare il leader. Non l'ho detto a nessuno, ma l'ho sempre pensato. Ah, ecco. Adesso devo dire, ho proprio nostalgia della scrivania di Quintino Sella dove facevo il ministro. Ma ho capito, ma lei sta girando l'Italia, l'Europa per dire la sua sulla situazione economica. E quando era ministro non ha fatto niente, però. Quando ero ministro dovevo giocare a Filippo con i conti del debito pubblico. Adesso posso sparare cazzate come economista. Appunto, lei adesso pontifica, eccetera, però quando era ministro, insomma, anche per la famosa crescita di cui tutti parlano, ha fatto ben poco. un conto è parlare e dare consigli, un conto è fare le cose e dare il buon esempio. Appunto, però, proprio questo è il punto. C'è una contraddizione pazzesca, però evidentemente lei se ne frega di questa contraddizione. La contraddizione del razzolare bene e predicare male. Oh, mi sono sbagliato. Predicare bene e razzolare male. Sono un po' confuso senza la mia scrivania di Quintino Sella. E vabbè, un po' triste. Questo era Giulio Tremonti, collegamento speciale con la Zanzara. Hai sentito Parenzo, sì? Ha dato delle notizie come al solito strepitose. Beh, soprattutto la sua nostalgia per la scrivania di Quintino Sella. Poi dice che adesso può andare in giro a sparare cazzate, mentre quando era ministro, insomma, bisognava fare un po' di conto, no? È così la situazione. Va bene. Giampiero da Milano. Giampiero da Milano. Sì, buongiorno. Buonasera. Sì, io devo dire, era un po' di tempo che non ascoltavo più la vostra trasmissione. Sì. Male. Molto male. E no, molto male, perché il vostro compito, io credo che sia, questo sì, è un mio parere personale. Che compito abbiamo, scusi? Di educare. Educare, che cosa? Però senta, se me lo fa dire, bene, se mi interrompe ogni 30 secondi, ogni 3 secondi, non ho neanche iniziato a dire una parola che già sì, mi ha chiesto, ha fatto una domanda. Mi lasci parlare e glielo dico. Sì. Ecco, uno dei motivi è proprio questo, cioè il fatto che lei spesso, quando percepisce che c'è una persona che potrebbe fare delle affermazioni compiute e sensate, visto che è probabilmente anche il suo compito quello di sì, però Giampiero, andiamo al sodo, su, non ci dilunghiamo troppo, andiamo al sodo, qual è il punto? Il punto è che secondo me lei e il suo collega, che non mi ricordo neanche come si chiama, ecco appunto, Parenzo. Bene, siete asserviti ad un sistema, perché siamo asserviti a un sistema, benissimo. È vero. Sì, fatemi parlare. Quello che voi ma chi saremmo asserviti? Non ho capito. Beh, io non posso dire a chi, posso dire a quale sistema? Che è quello politico di oggi. Al sistema politico. Perché l'ascoltatore che prima ha fatto un intervento assolutamente sensato e sì, ha detto che questa dirigenza politica è da... Ah, quello era un intervento sensato, quello dell'ascoltatore di prima. Ma lei dove vive, scusi? Cioè, quello là che voleva spazzare via tutti, che voleva fare il tribunale del popolo per tutti, era un intervento sensato. Ma scusi, ma lei perché non va in giro? Perché lei pensa che io sia uno scriteriato, che sia un pazzo? No, non ho detto questo. Io ho 50 anni, sono un imprenditore e so che esattamente che questa classe politica è una classe da spazzare via assolutamente. Sì, ma io non ho detto, tra l'altro il punto non era questo, spazzare via la classe politica, che può essere pure, come dire, era il metodo, la forma. No, ma scusi, lei deve pensare che ogni soldo che questi ladri si portano a casa sono soldi che portano via, magari non a sua mamma, perché sua mamma sarà meglio sicuramente, perché ma si portano via chi, dove, qual è il punto? Cioè, non ma scusi, è... ma lei fa il giornalista, vive sulla Terra oppure su un altro pianeta? Giampiero, però io non so di cosa si sta parlando. Allora, di cosa parliamo? I milioni di euro che si è fottuto Lusi, gli altri che ha indicato una cosa, finalmente ha indicato uno, il signor Lusi, benissimo. Allora, contro il signor Lusi c'è un procedimento in corso, c'è la giustizia normale. Secondo lei non basta, cosa bisognerebbe fare? Secondo lei? Cosa bisognerebbe fare oltre la giustizia normale? Non ho capito. La giustizia, io sono a favore della giustizia del popolo, perché il popolo benissimo, deve decidere. La giustizia del popolo. Io sono del lei parere che è completamente pazzo, questo è il punto fondamentale. Completamente pazzo. Lusi è un servo. Scusi un attimo, su Lusi da chi va giudicato? Lei dal popolo? Servo. Dal popolo? Lei è un servo. Ma lei è fuori servo di testa, ma non c'è problema. Lei è un servo. Ma non c'è problema, Giampiero, io sarò servo, ma meglio essere servi che pazzi, non si preoccupi. Probabile, dipende da punti di vista. Sì, ma io non ho capito una cosa, ma questo tribunale del popolo da chi è formato? Come si crea? Non penso che in pochi secondi io possa darle questa indicazione. No, ma lei deve, siccome è così esperto di queste cose e pensa di avere la soluzione, allora mi dia un'indicazione di come deve essere composto questo famoso tribunale del popolo. Io le dico certamente. No, ma lei deve rispondere a questo, non su altro. Cioè, perché lei dice che non ci vogliono i tribunali normali per la vicenda Lusi, ma ci vuole il tribunale del popolo. Lei mi deve dire primo cosa significa il tribunale del popolo, secondo da chi è composto e come può giudicare, mi dica. Allora, Mario Rossi, Giovanni Verdi, che le dico il nome. Ma come? In che modo? Chi lo nomina questo tribunale del popolo? Chi lo nomina? Il popolo? il popolo. Ma il popolo chi? Giampiero, chi? Come? Chi lo nomina? Di che sta parlando? Senta, lei parla della giustizia italiana. Ma lei non sa di cosa parla, lei è completamente fuori di testa, lei non sa di cosa sta parlando. Faccia andare l'ambulanza e così la portano via, dai. No, ma l'ambulanza era per lei prima, non l'ha capito ancora. No, io scusi, pensavo Giampiero, che era per lei. Ma da chi è formato questo tribunale? Non mi spieghi, da questo tribunale del popolo che dovrebbe giudicare Rusi. Persone sensate che sanno persone sensate, benissimo. Bene, ma cioè, diamo per scontato che ci vogliono delle persone sensate. Sì. Da chi sono nominate? Ma guardi, qualcuno dovrà prendersi questa responsabilità. Ma lei non sa di cosa sta parlando. Né lei, né esistono le leggi, la neanche... Costituzione, esistono le procedure. Sì, ma di che sta parlando? Tutto a cominciare dalla Costituzione. Tutto a cominciare dalla Costituzione, perché la giustizia in Italia non funziona, perché la politica non funziona. Siamo al delirio. Lei si ricorda presente della il caso della Santa Rita di Milano? Della lo dico Santa davanti Rita a tutti perché Milano. Non ho tema di smentita. Allora? Io ho perso una causa ma sono stato rimborsato di 11.000 euro. Perché sono uno dei reduci per fortuna, grazie a Dio, delle mafionerie fatte allora... lì. E se questa è giustizia in Italia. Ma io non lo so se questa è giustizia, probabilmente no. Ma io non ho capito la questione del Tribunale del Popolo. E quindi come vogliamo fare politici. Giustizia allora? Come vogliamo fare? Ma in che modo? Con la ghigliottina, con la pena di morte? No, mi dica. Ma non c'è bisogno di arrivare a quello. Cosa, allora? Non c'è bisogno di arrivare a quello, ma sicuro. Non c'è bisogno di arrivare a quello. Però in qualche modo bisogna fare. Cioè lei, scusi, quei soldi che Lusi le ha portato via. Lei che cosa... Cioè lei a bozza, perché dice a me che mi frega tanto 150.000 euro, me li porta a casa. Ma chi ha detto che a bozza? Ma c'è un processo in corso! No, non basta questo, bisogna ci vuole un'altra giustizia secondo l'ascoltatore. Non si è capito quale, ma ci vuole un'altra giustizia. Però lei ignora che la maggior parte degli italiani pensano questo. È quello che a me fa rabbia ed è quello per cui io non tornerò più ad ascoltare la sua trasmissione. Pazienza, che devo fare? L'ho lasciata parlare in libertà come non, cioè, non può accadere, come non può accadere in alcuna trasmissione, sono grato, per cui... e gliene do atto. E allora, però... E allora no, non dica stupidaggine e continua ad ascoltarci, grazie. Ignazio La Russa, buonasera. Come sta? Pronto. Buonasera. Ha sentito questo ascoltatore? Bisogna mandare i mezzi Linge anche a casa del signor Giampiero per fare piazza buleta di questi pensieri facinorosi. Vabbè, addirittura i Linge, adesso non esageriamo. I mezzi Linge, il migliore dell'esercito. Io stesso quando ero ministro ne feci acquistare centinaia, migliori. Scusi un attimo, Lucia, una sola domanda, per questo abbiamo disturbato. Ma il 2 giugno qualcuno dice che non va fatto perché... No, assolutamente. La parata militare era la cosa più bella quando ero ministro, passavo in assenza le truppe, mi sentivo come il duce, bellissimo. Ma come il duce? Bellissimo, ma il comandante clamorose. In capo dell'esercito, dell'aviazione, con le frecce tricolori, era una festa, bellissimo. Scusi, spero ma che mi invitino ancora come ex ministro. Scusi, La Russa, la trattengo ancora un attimo, ma molti dicono che questi famosi coordinatori del PDL vanno fatti fuori, che bisogna azzerare tutto. Caccia bombardieri, mandiamo gli F-104 contro questi insolenti che vogliono cambiare la leadership del partito con me presente. No, non li facciamo parlare. I cacciabombardieri F-104, ma anche questi giovani formattatori del PDL, questi che vogliono il cambiamento, pure questi, via, spaziamo. Al confino, tutti. Tutti al confino, vabbè. Ho un po' ceduto. Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24. Marco da Catania, buonasera Marco. Buonasera, ma niente, io quasi quasi rinuncio al mio intervento, guardi. Perché? Ma perché poi lei inizia a sovramodulare, ma di che stiamo parlando? Sovramodulare, sempre, che vuol dire? Cioè... Sovramodulare significa parlare sopra le persone che fanno gli interventi. Ma lei parli, non si preoccupi, parli, non si preoccupi. No, solamente la invito veramente così in maniera... molto sì. Serena ad andare un po' per strada e capire quanto è incazzata la gente, sì. E perché chiama incazzata, solo questo. Siamo incazzati. Che ne sa che io molto, non vado per strada? No, perché lei dà delle risposte che veramente lasciano a bocca aperta. Io do risposte sul Tribunale del Popolo, questa era la discussione, non sull'incazzatura della gente, sul siamo Tribunale incazzati. Del del popolo. E chi se ne frega? Il tribunale del popolo, io ho detto il tribunale del popolo, su questo ho dato risposte, sull'idea di un tribunale del popolo che chiunque, qualsiasi persona con un minimo di senno considera ridicola. Se lei non la considera ridicola sarà peggio per lei, Marco. Se lei pensa che ci debba essere il tribunale del popolo, pazienza, cioè tribunale del popolo addirittura superiore ad altri tribunali e non so che cosa, cioè non, o no, o lei pensa davvero il popolo è sovrano, quindi il popolo è sovrano, il tribunale del popolo. Anche lei immagina un tribunale del popolo. Tutti a casa, giudicati, sì. E devono pagare i danni che hanno fatto. Benissimo, giudicati da chi, scusi? Dal popolo. Assolutamente. Siamo dal popolo attraverso incazzati. Cosa? Sì, attraverso sì. Cosa? Quali forme? Attraverso quali Ma forme? Ma anche, scusi, degli strumenti referendari. Sì. Abbiamo gli strumenti referendari. Ma che c'entra gli strumenti referendari con restituire le somme, come dice lei? Perché Ormai la tecnologia ci permette di fare molte cose con pochi click, quindi. Ma con pochi click che? Ma che democrazia immagina lei? Che tipo di democrazia immagina? È una democrazia che sia un po' più uguale per tutti, no? Perché io non ho capito questa cosa, francamente. È andata a finire che pochi, ricchissimi e tutti gli altri per strada. Va bene. Grazie, buonasera. La serata della frustrazione dei oggi, sì. Frustrazione dei. Poveretti. Senta, perché tra Romiglia e Montezemolo non corre buon sangue, Albertini? Bisogna risalire al tempo in cui lavoravano insieme, forse ci sono molte differenze anagrafiche, di stili di comportamento. Romiglia è incazzato come una bestia, ogni volta che fa un'intervista su Montezemolo dice come Berlusconi. No, mi ha un po' stupito effettivamente che Romiti, peraltro a cui mi lega un rapporto eccellente, fu uno dei due che mi presentarono a Berlusconi, sì, quando dovetti poi considerare l'ipotesi di fare il candidato e poi il sindaco, quindi ho un ottimo rapporto, e mi ha stupito perché ho sempre saputo di questo dissidio tra i due, ma a distanza di molti anni viene chiamato da una trasmissione ascoltatissima e molto vista come quella di Fazio, e prima ancora che Montezemolo si affacci racconta cose, insomma non l'ho vista questa intervista, ma poi nei resoconti vari ne ho colti i tratti salienti. Effettivamente era molto polemico, ma è una cosa che conoscevo. Adesso che argomenti ci siano di dissidio tra i due debbano credo risalire a quando sono stati nello stesso complesso industriale, e forse c'è anche una differenza perché Romiti ha svolto le sue funzioni soprattutto insomma in un'età matura e con un background, non c'è solo quello, sono diversi stili di comportamento. L'ottimo Montezemolo è diventato giovanissimo direttore sportivo della Ferrari, un uomo di successo, molto brillante, grande uomo di relazioni eccetera, quindi insomma si vedono delle differenze tra i due, no? Su questo non c'è dubbio. E quindi insomma similibus curentur, oppure si creano delle tensioni, e poi magari qualcosa che non sarà andato come doveva andare qualcuno l'avrà visto. Nel caso dovesse presentarsi, si aprono gli armadi e magari esce fuori qualcosa che non si vorrebbe che si conoscesse. Traffico. Bene, allora domanda conclusiva con Albertini, lei voterebbe mai una lista Saviano? No, Saviano non mi piace proprio per niente, ma non so se a Bettini o a Tremonti a Paudave. Saviano nulla? Aspetta. Sto facendo Tremonti, sì, scherzo. Tremonti. No, Saviano certamente è una persona che ha dimostrato coraggio. Un attimo solo. Non faccio troppo diplomatico lei, Albertini, ogni tanto... È sempre il solito che non becchiamo stasera, è sempre il solito che non risponde. Ma chi è? Vogliamo svelare questo mistero? Non possiamo svelarlo. È il professore. Ma il professore quale? Il vostro, cioè il Sgarbi Quotidiani. Sgarbi Quotidiani. Che il professore uno pensa a Prodi, pensa a Monti, no, il professore. Dai, così, do un suggerimento. Io quando avevo questa... Da ragazzino avevo questa fidanzata che non mi rispondeva mai al telefono perché vedeva il numero. Bisogna fare asterisco 31 asterisco e il numero, e viene fuori sconosciuto, e quindi rispondeva. Magari pensa che sia una bella ragazza e risponde. È già sconosciuto. hai già sconosciuto. È facile con... Magari. Vabbè, quanto vorrebbe fare il presidente della Lombardia, Albertini? Mi dica, quanto? Tanto, lo vorrebbe fare. No, le piacerebbe, le piacerebbe. No, non è una cosa che sto, valutando, anche perché c'è il presidente in carica che sta facendo il suo lavoro, in mezzo a critiche e a problemi, ha ancora 2 anni di governo, quindi... Lei spera che nel 2013 la situazione non cambi. Non sono così maligno, così soprattutto ostile nei riguardi comunque di un amico con cui ho collaborato molto fattivamente quando io sindaco e lui presidente della regione abbiamo fatto molte cose insieme. Grazie Gabriele Albertini. Grazie a voi. La lezione di Milano con Mario Paternostro. Ti ho portato un librettino in omaggio. Ha portato un libro anche per te. La lezione di Milano, dove si spiega perché abbiamo perso, perché abbiamo vinto. Una foto da bel tenebroso. Speriamo, speriamo. Una foto conquistador qui, Albertini. Quante donne ha avuto lei nella sua vita, Albertini? Io mi sono sposato a 60 anni e non sono mai stato omosessuale. Quindi, insomma, quello che c'entra. Confesso che ho vissuto. Ha vissuto, tante donne. Sì. Insomma, no, adesso non più esageriamo con i miei limiti. Più di 10, sì. Più di 10. Beh, sì, certo, più certo. Di 60 anni, insomma, 60 calcolando, anni. Beh, magari i primi 10 o 15 no, ma da 15 anni in avanti, insomma, prima con qualche ragazzina, poi con... sì, insomma, ho cercato di conoscere l'altra parte, l'altra metà del cielo, insomma. Non c'è dubbio, d'altra parte... Ma è vero che lei andava a scuola Monti? Andava a scuola con Monti? Sì, nella stessa scuola, non nella stessa classe, perché abbiamo 9 anni, nonostante possa dimostrare qualche anno in più dei miei 62. No, Leone XIII, siamo allievi dei gesuiti, siamo entrambi molto orgogliosi di questa storia, ne abbiamo anche parlato, mi ricordo. Non eravate nello stesso... A Leone XIII, certo. Ma non in... Sì, perché io sono entrato alla seconda elementare e ho finito alla maturità classica. Lui ha 8 o 9 anni più di me e anche lui deve aver fatto tutto il cursus, quindi siamo stati nella stessa scuola in anni diversi, quindi in classi diverse, ma siamo stati insieme, anzi potrei raccontare degli episodi, ma adesso è finita la trasmissione, sarebbe lunghissimo. No, alla prossima, grazie Gabriele Albertini comunque. Paolo da Milano, grazie a voi. Pronto? Vada. Ma volevo chiedere se lei certe volte fa finta di non capire oppure c'è proprio, secondo me fa finta. Ma secondo lei è possibile che un ministro della Repubblica convochi una conferenza stampa di fronte a tutti gli italiani e dica che lui non sa chi gli ha pagato la casa? Ma di chi sta parlando lei, scusi? Scaiola ancora. Ancora di Scaiola? Beh, ma per lei questo è normale? Ma no, ma non è normale, ma abbiamo fatto intere trasmissioni prendendo in giro questa roba qui, cosa dobbiamo fare adesso? Ma lei sembra che giustifichi questa cosa, ha fatto le trasmissioni. Io giustifico, io non ho giustificato nulla, perché dovrei giustificare? Scusi, io non ho capito, l'ascoltatore di prima ha chiamato dicendo che vuole una giustizia del popolo, che non si capisce cosa significa la giustizia del popolo, e per questo io giustifico qualcosa. Quindi secondo lei noi cambiamo tutto col voto? Ma scusi, ma qual è l'altro modo per cambiare? Lei ne conosce uno per cambiare? Ma non lo sa. La cosa grave è che non lo sa, che lei pensa che ci sia un altro modo oltre. La cosa grave è che lei invece non vuole cambiarle. Va bene, sì, Paolo, cosa vuole che le dica? Cioè, continui. E la pensi così, ma cosa vuole? Io conosco solo un modo. Secondo lei è possibile che Bossi dica che non sa chi le ha ristrutturato la casa? Ma lei ha mai fatto un atto notarile dove c'è un notaio e un ministro della Repubblica va in conferenza, o Formigoni va in conferenza stampa e dice che lui divide i viaggi, quello l'aereo, quello, ma lei ci crede a queste cose? Perché non lo dice che non ci crede? Non ci credo. Ma lei sta sul vago. Non ci credo, allora? Non lo so. Non ci credo, allora? Cosa allora? Allora? Allora, non ci credo, allora? Secondo lei uno così può fare il presidente della regione Lombardia? Può darsi che si debba dimettere, non lo so. Vabbè, ma qual è il punto? Dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare? Credo che quelli come lei... Ma vogliono mantenere questa situazione. Va bene, va bene, d'accordo. La ringrazio, Emanuele da Pisa. Sì, buonasera Cruciani, non si arrabbi, non si arrabbi, per l'amor di Dio. Dipende da voi. No, salve Parenzo. Volevo salutare anche i suoi ospiti, Agnelli, Tremonti, La Russa, tutto, molto graditi. No, volevo semplicemente puntualizzare una cosa sulla sfilata del 2 giugno, per dovere di chiarezza. Qualcuno oggi ha parlato di manifestazioni muscolari di stampo sovietico. In realtà, già da diversi anni, per chi non è informato, mezzi pesanti alla sfilata del 2 giugno non vengono fatti sfilare. Ma poi li hanno proibiti adesso, Né cingolati, né mezzi pesanti, soltanto motorizzati e truppe leggere. Per cui volevo dire questo, mi sembra che siano un pochino tendenziose certe affermazioni di qualcuno che fa riferimento alle cosiddette ideologie sovietiche, quando insomma forse non è totalmente informato. Ecco, semplicemente questo. La ringrazio. Lei parlava di Bonanni, che oggi, questa mattina, ha detto le manifestazioni, c'è cioè la sfilata, mi ricorda, sì, mi ricorda quello che avveniva in Unione Sovietica. Carlo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Un onore parlare con voi. Allora, guardi, io ho sentito questa ondata giustizialista dei vari ascoltatori di prima che mi ha lasciato... Ma non è giusti- non è nemmeno giustizialista, è, come dire, una sorta di, una di, follia, di sfogo senza senso, perché io posso capire la rabbia, la come dire, no, l'attacco nei confronti della classe politica e tutto quanto. Poi però c'è questa cosa del tribunale del popolo che non capisco, è il popolo che decide, ma attraverso che cosa decide, appunto, il popolo, se non attraverso le elezioni? No, attraverso non si sa bene quale tribunale, quale sentenza, quale sulla pubblica piazza, l'impiccagione, la ghigliottina, il taglio delle mani, non si riesce a capire. Comunque, dica. Niente, per cui sono certo che Parenzo sarà d'accordo con me. Sto organizzando qua a Milano un Verdini Day. Ottimo! Vero. Quindi niente. No, vabbè, adesso andando all'intervento, io volevo commentare la frase che ha detto oggi Prandelli sul fatto che non vuole parlare di 40 sfigatelli. Ecco, io sono d'accordo con lui, nel senso che è un raro esempio, secondo me, nel mondo del calcio, di chi cerca di non difendere ad oltranza la propria categoria, ma esce dal coro, diciamo, pur vabbè, facendo comodo in questo periodo che tutti effettivamente ce l'hanno contro le classi privilegiate, diciamo. Però i calciatori due cose non devono fare: drogarsi e scommettere sulle partite. Bravo. E c'è chi riesce anche a fare entrambe le cose. Bravo. Per cui a un certo punto fa bene a smarcarsi. Cioè, il paragone con Lippi del 2006, quando, diciamo, durante la stagione di Calciopoli non era così, come dire, molto propenso a cercare la verità, forse anche per motivi personali legati al... Guardi, non c'è nessuna cosa che riguarda, adesso non facciamo paragoni, eccetera. Sì, no, l'allenatore della nazionale ha detto che questi qua che sono coinvolti sono 40 sfigati, non ha detto niente di più, niente di meno. E comunque, per sì, quello che riguarda la coerenza, vorrei ancora capire, restando su questo argomento della nazionale, perché un indagato come Criscito, difensore, è stato mandato a casa, perché un indagato, secondo me non deve essere mandato a casa nemmeno Criscito, e perché invece un indagato come Bonucci, difensore della Juventus, oggi è stato confermato che è indagato, è vero, e invece resta in nazionale. Questo è tutto da chiarire. Per cui quando uno fa impone delle regole di comportamento, però queste devono valere per tutti, non è che possono andare a corrente alternata a seconda dell'importanza o meno di certi giocatori. Certo. È vero. Enrico da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera. Rimanendo sempre in tema di calcio, io credo che Buffon dovrebbe vergognarsi in prima persona per lo spettacolo che il calcio ha dato negli ultimi 10 anni. Bravo. Prima di dire agli altri di vergognarsi dei propri comportamenti, che si possono pure criticare, ma lo dovrebbero fare altre persone, non Buffon, che sa benissimo che... Parliamo solo degli ultimi 10 anni, abbiamo visto i casi di doping amministrativo, i bilanci truccati, sanati poi con l'intervento dello Stato, abbiamo visto Calciopoli, abbiamo visto le scommesse, i fatti di Genova, e quindi Buffon dovrebbe stare zitto, ecco, la cosa migliore che potrebbe fare quando parla di vergogna. Poi, per quanto riguarda il Tribunale del Popolo, Cruciani lei sa benissimo che questo sistema di leggi è fatto apposta per l'impunità, no? Perché se lei poi dice che i politici dovrebbero cambiare le leggi e i politici vengono votati con questo sistema elettorale che i politici non vogliono cambiare, come vede siamo in un circolo vizioso, siamo in un vicolo, in un vicolo cieco. Quindi la rabbia. Cioè, no, lei non prenda per i fondelli la gente, perché lei sa benissimo che è così. Cioè, il sistema delle leggi in Italia non c'è la democrazia in Italia, non c'è la democrazia. Sta dicendo delle cose che io non ho detto. Un attimo solo, prima ho la borsa. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi compagni di viaggio. Faccio appello alla sua sensibilità. La magistratura, voi avete detto che è uscita oggi con la notizia dopo le affermazioni di Zoff. E se invece che Zoff ha ricevuto una notiziola? Ma che Zoff? Buffon, Lorenzo? Scusi, abbia pazienza, la vecchiaia mi gioca brutti. Perché non è che solo Repubblica e Travaglio possono avere le soffiate. E se Buffon, già dal 2010 questa storia va avanti, avesse ricevuto la soffiatina e ieri... La soffiatina di che cosa? Dell'esistenza di un'informativa, di un'indagine, di che cosa? No, dell'indagine, di questa ma cosa. Non c'è, ma non è che un'indagine, questa qua è una informativa della Guardia di Finanza. Cioè. Certo, e allora Buffon è venuto a sapere nei giorni precedenti e ieri si è messo le mani avanti, o no? È un'ipotesi, voi che dite? Parenzo che è sempre molto bravo. Ma Parenzo è quello che sostiene, ma è una nota riservata trasmessa dalla Procura di Torino a quella di Cremona. Cioè, questo è il punto, come faceva a saperlo prima? Ma la nota riservata sono versamenti che l'amico ha ricevuto a Parma. È chiaro che è stato subito chiamato, è stato subito e ha avvisato Buffon, guarda che io sono stato costretto a dire perché e per come tu mi hai mandato questo. Vabbè. Io non credo che sia così. Alessandro, no, ma non c'è nulla. Alessandro da Vicenza, comunque sono tutte supposizioni. No, ma non c'è nulla. Cioè, Buffon ha detto una cosa. Non c'è nulla di male nell'avere un retropensiero di questo tipo. E lui riuscirà a dimostrare che non ha fatto nessuna scommessa sul calcio, che non è andato in quella tabaccheria e saremo tutti felici e contenti. Se è andato in quella tabaccheria non c'è niente di strano. Cioè. No, voglio dire, se è un problema di allocazione di denaro, come hanno detto i suoi legali, io non vado in tabaccheria. Se tu vai in tabaccheria va benissimo, poi tu puoi andare dove ti dare, ma non è questo il punto. Suona un po' strano, così come la pubblicazione di oggi della Guardia di questo suona strano, è evidente, ma suona anche strano quello che ha detto Buffon ieri. Si può criticare Buffon oppure è un ma simbolo? No, ma tu puoi criticare chi vuole, l'hanno criticato tutti oggi, se hai letto i giornali avrai visto come l'hanno criticato tutti e continuano a criticarlo. Continuano a criticarlo tutti, per cui prima di vedere questa notizia di oggi, già ieri, se ti ricordi, avevo detto che poteva starsene zitto, che mi ricorda tanto Berlusconi, cioè questi miliardari eccellenti ed eccentrici che criticano la magistratura senza averne, come dire, fiducia o fede prima di essere bastonati. Perché Buffon ha avuto problemi, è stato anche assolto Buffon, no? Non è stato assolto. Vabbè, andiamo oltre. Alessandro da Vicenza. Sì, buonasera. Dica. Grazie dell'intervento. Niente, io volevo complimentarmi questa volta con il professor Montin, che ha fatto una proposta, come l'aveva fatta alcuni anni fa, intelligente, quella di fermare per un bel po' di mesi le partite di calcio. E secondo me, visto che tutto ruota intorno ai soldi, al money, al denaro, e questo potrebbe essere uno stimolo interessante. Senta, Alessandro, è una boiata detta da Monti nei giorni scorsi. Lui poi l'ha fatta passare, l'ha fatta passare non come una proposta, ma come una non so che cosa, una battuta, un qualcosa che sentiva dentro. Ma un presidente del Consiglio non dovrebbe fare né battute né esprimere cose che sente dentro. Se non è una proposta, poteva stare zitto. Lui sì, poteva stare zitto, perché ha un ruolo molto più importante di quello di Buffon, che in fin dei conti fa il portiere di una squadra di pallone. Per cui di che parliamo? Visto che dopo tanti anni ci sono sempre questi problemi di calcio. E allora che facciamo? Cosa sospendiamo? Sospendiamo l'intero campionato. L'intero campionato, bene Alessandro. L'intero campionato e... Sì. E un'altra cosa che secondo me, visto che la magistratura è sempre accesa in questi periodi, dovrebbero andare a indagare anche questo fracking che sta facendo l'industria petrolifera sul sottosuolo anche delle Emilia. Infatti mi stupiva che non avesse tirato fuori prima Alessandro. Cioè, cancelliamo il campionato di calcio e facciamo indagini sulle perforazioni. Sulle perforazioni per vedere se magari provocano il terremoto. Perché esatto, no? E anche magari per vedere gli aerei gli aerei che fanno le scie chimiche sopra la testa degli italiani senza che nessuno sappia niente cosa ci mettono in quelle, certo. Poi in cos'altro? Quelle bombole. Cos'altro bisogna vedere? Sarebbe sufficiente per aprire un po' gli occhi alle persone che si stanno addormentando. Beh certo, le scie, le perforazioni, cancellare il campionato. Sono cose che si sono decuplicate negli ultimi anni. Certo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, gli effetti sull'ambiente ci sono. Sì. Perché basta vedere cosa è successo in Emilia. Sì. E ci sono documenti anche su stampalibera.com che parlano chiaro di questi eventi, abbastanza rari fino a pochi anni fa. Ma da quando che queste perforazioni si sono intensificate, sì, è intensificata anche la marea di questi. Non c'è dubbio, è tutto colpa delle perforazioni. Grazie, grazie Alessandro. Intanto Dario Di Vico su Twitter dice: di questo passo Buffon diventa il papa straniero del centrodestra italiano. Ed effettivamente molte sue uscite in questi giorni sono condivise dal centrodestra. Ma adesso c'è un personaggio, caro Parenzo, che ha fatto parlare di sé. E per quello che ha scritto su Twitter, è un capogruppo della Lega al comune di Udine, che è stato nostro ospite diversi anni fa, 2 anni fa, Luca Dordolo, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Molto bene. Senta, lei è scatenato su Facebook, sì, non su Twitter in realtà, no, su non Facebook. È vero, lo uso ogni tanto e... Diciamo che ha avuto un periodo così burlone, ecco. Burlone, certo, non c'è dubbio. Mettiamolo su questo piano. Per esempio, buttiamo in vacca tutto sempre. No, adesso in vacca che c'entra? Allora, esatto, per esempio, è un animale sacro, poi è questo, vacca, no? Infatti la vacca è un animale molto sacro secondo certe religioni, no? Certo. Di fronte alla notizia a Piacenza, vestiva occidentale, indiano strangola la moglie incinta e la getta nel Po. Notizia di qualche giorno fa. Lei ha scritto una cosa molto moderata, mi sembra, no? Per esempio? Sì. Che ha scritto, signor Dordolo? Lo dica agli ascoltatori. Lo dica. No, io non l'ho letto, lo dica lei. Io l'ho scritto e rimane scritto, insomma. Ecco. Appunto, io ce l'ho qui davanti, ma cosa ha scritto? Ho scritto che, insomma, non si può inquinare in questa maniera il nostro sacro fiume Po, no? Perché lei è un cretino. Io ho fatto un'analogia, no? Sì. No, lei dice sciocchezze. Aspetta, fai parlare. Momento, perché la cosa è stata fatta con un certo umor. Fai parlare. Un certo umor nero. Poi non so chi è dall'altra signor parte. Signor Parenzo. Ecco, non so chi sia, neanche non mi interessa. Però voglio dire, no? Cioè, mi è venuta in mente un'analogia immediata. Cioè, il Po è il fiume sacro per i padani, giusto? Sì. E che quindi questo che aveva fatto, prima aveva massacrato la moglie, poi l'aveva buttato nel nostro fiume sacro. E allora mi sono detto, vorrei vedere io se noi andassimo a defecare, a sgozzare mucche, vacche, maiali sul Gange, che questi qui erano indiani, cosa direbbero loro? Questo ha ammazzato una persona, è diversa, poi, non è che è andato a defecare o a sgozzare mucche e maiali. E ho detto, ma loro già lo fanno, perché loro al Gange, che è il loro fiume sacro, affidano i cadaveri, vanno a defecarci dentro, ci fanno il bagno, ci fanno pascolare le mucche o fare il bagno alle mucche, fanno tutte le attività dentro il fiume. Allora poi ho chiuso dicendo, allora se per loro è una cosa normale, allora non c'è niente di male. Ma lei all'inizio ha detto, maledetto, inquinare così il nostro sacro fiume. Sì, esatto, distinto, no? Mi è venuto su, il Po è un fiume sacro per i padani, questo è il discorso, no? E poi ci ho ricamato sopra questa che si può definire un umor nero, una battutaccia, prendetela come volete, insomma. Umor nero lei lo chiama, tu come lo chiami, Parenzo? Dico con rispetto al capogruppo in consiglio comunale di Udine della Lega, il signor Luca Dordolo, che ha scritto una stronzata mega da e si deve anche vergognare. Vergognarmi no, perché l'ho scritta io, come faccio? Sono concorde. Dove ha studiato lei alle serali? Lei? Io ho la terza elementare in campagna. Ma che c'entra lo studio? Io ho la terza elementare in campagna presa, perché lei dove l'ha preso? Scusi, Dordolo. Lei dimostra un'ignoranza e anche come un razzismo schifoso e basso quando insulta il popolo indiano, ma non sa niente. Io invece ho una proposta seria, adesso lasci stare gli insulti. Questa gentaglia qui che viene qui e non impara le nostre tradizioni, i nostri usi e le nostre leggi, questa gentaglia qui non va mantenuta in prigione. Noi dobbiamo rispedirla nelle galere indiane e magari fare un bello scambio. Gli regaliamo questo delinquente, assassino e uxoricida, in cambio ci facciamo tornare i nostri 2 valorosi Marocco. Cosa dice lei? Non è una cosa degna da fare questa, per uno come me che non ha studiato. Scusi Dordolo, lei perché li dobbiamo mantenere noi questa gentaglia qui? Guardi, Dordon, un reato commesso in Italia, uno di solito alla fine nella galera italiana, comunque, insomma, poi... Ma no, li dobbiamo mantenere noi, ma sai cosa costa un carcerato ogni giorno in Italia? Lei, scusi... Perché dobbiamo mantenerli questi qui? Rimandiamoli a casa! Lei ha fatto un'altra dordolata, la musulmana terremotata che ha rifiutato il pasto perché il maestro era contaminato, cos'è che ha scritto su Facebook? Che vanno massacrati a mestolate sul grugno. Beh... Ma scusi, cioè io ho fatto l'alpino e so qual è il valore della solidarietà. Qui c'è un gruppo di alpini che va a dare solidarietà, non è pagata, quindi lo fa da volontario e questa si permette di fare polemica. Ma chi li ha chiamati qui? Ma chi ma li questa vuole? Qua è una. Ma che tornino a casa, c'è crisi qui. Ma cosa dobbiamo? Mantenere questa gente qui? Ma questa qui? Magari è italiana. Cioè... Ma che italiana? Ma quale italiana? È semplicemente di religione musulmana e ha rifiutato il maestro perché era contaminato dalla carne di maiale. Se lei legge l'articolo vede che è stata una provocazione, perché viene scritto poi nell'articolo, no? Viene scritto che era... Il maestro è impuro e ha servito bracciale di maiale. Per provocare e comunque io mi direi andare nessuno... in giro a dire cose così come dice Dordolo. Come scusi? No, ma io mi vergogno, mi dispiace, lo dico con rispetto, io mi vergognerei a essere Dordolo. Cioè se io fossi in lei, mi vergognerei delle ma cose orrende che dico. Ma per fortuna, lei è se stesso, io mi vergognerei a essere lei invece. Scusi, io non mi vergogno di niente. Cioè questa signora dico... andrebbe presa a mestolate in faccia. Come, scusi? Questa signora che ha rifiutato il mestolo andrebbe presa certo, a mestolo? Certo, certo. Beh, certo, adesso c'è? Certo, non è certo, scusi. Certo che va fatto così, perché io ti porgo una mano e tu me la mordi per aiutarmi. No, me la morda, la rifiuta, saranno affari suoi, rifiuta il cibo perché il mestolo è contaminato, chi se ne frega, uno guardi, può mangiare o non mangiare. Guardi, il concetto di politicamente corretto. Ma non è politicamente corretto. Dai sessantottini, dai sessantottini. Ma questo in questo caso non c'entra nulla però. Per mistificare la realtà, il vocabolario italiano sì. Dice che quelle che vengono chiamate persone di colore si chiamano negri, che male c'è a chiamarli? Ma io negri? Non ho nessun problema. Scusi, da questo punto di non vista. Non sarà mica un'offesa razzista, è il dizionario italiano. Bisogna sempre vedere come uno lo dice. Sono i buonisti sessantottini che mistificano e cercano di cambiare il significato reale delle parole. Un attimo solo, signor Dordolo è il capogruppo della Lega, mica in un comune qualsiasi, al comune di Udine, traffico. Siamo qui 800 24 00 24, altra dordolata, i matrimoni omosessuali, una nostra specialità, che porterebbero a che cosa, Dordolo? Ma questo non lo dico io, ma l'ha detto un vescovo nel 2007. Che ha detto? Quando è stata fatta la proposta dei Dico. Il vescovo in questione è... Ma lei l'ha fatta sua però questa Bagnasco, cosa. Ma questo è Bagnasco. Che cosa porterebbe il matrimonio gay? Io ho riportato solo quello che ha dichiarato lui. Ma cosa porterebbe il matrimonio gay? La concessione del matrimonio gay darebbe vita ad altre deviazioni, tipo? Chiamiamole così. Tipo? Tipo l'amore incestuoso, tipo queste cose qui. L'amore incestuoso e poi? Non so, non ricordo adesso che cos'altro ha detto. Però La pedofilia? La pedofilia per caso? Sì, anche. Cioè concedere i matrimoni gay significa sostanzialmente aprire la strada alla pedofilia e all'incesto. Certo, in Olanda è nato un partito di pedofili. Vabbè, in Olanda, dove ci si può lei non sa, a parte che non credo allora, che all'epoca che la cosa è possibile, no? Ma lei non connette! Ah, non connetto, io mi baso sui fatti. In Olanda c'è un partito Dordolino! Poi che altra... Non si ridere o vomitare ancora, no? Vado in Olanda, che è meglio. Ma quale Olanda? Ma di che non so se ridere o vomitare, guarda, è una cosa incredibile. Scusi Dordolo, però adesso... Ma come scusi? Ma perché gli dici anche scusi? Dordolo, sono... lo tratti come fosse una persona normale, ma non puoi! E invece cos'è, scusa? Ma rendi conto di cosa dice il dio Po e i cadaveri nel fiume Gange e i gay sono pofili in Olanda? Ma non si può dire, c'è il capogruppo in un... Non confondiamo quello che ho detto con quello che... è la realtà. No, però scusi Dordolo, lei è il capogruppo della Lega al comune di Udine, cioè un comune anche di una certa importanza, un capoluogo di regione, lei non può dire che il matrimonio gay darebbe vita all'amore pedofilo e all'incesto. Capoluogo di regione, purtroppo solo di provincia. No, una provincia ho detto importante, un capoluogo di una regione importante ho detto. Capoluogo di provincia di una regione importante, non può dire che il matrimonio gay apre la strada alla pedofilia, perché è una follia. Ma l'ho detto io ho citato. Ma chi ha citato? Ma lei lo condivide? Ma lei lo, a parte che Bagnasco non l'avrà fatto, detto. L'ha fatto nel 2007 a Genova. Ma lei lo condivide? come se evidentemente se l'ho riportato. Significa che lo condivide, cioè, questo è il punto. Ma lei ha detto anche una volta: giustiziare chi attenta alla nostra Costituzione, dona anche tu una pallottola per Napolitano. Nel caso della concessione della cittadinanza agli extracomunitari. E che bisogna fare? Sparare a Napolitano? Cambia tutto, allora cambia tutto. Se lei legge trova che c'è scritto. Non serve altro, di piombo, ma altro. Basta. Io ho scritto altro, cioè ho scritto che questo signore qua ci costa 6 volte quello che costa la corona inglese. Ma questo che c'entra, scusa? 2 volte quello che costa l'Eliseo. Ma questo che c'entra? Ho scritto aboliamolo, non uccidiamolo. Ho scritto aboliamolo. Aboliamolo, ma questo lei ha detto anche: dona anche tu una pallottola per Napolitano. Ma non mi pare. Non mi pare, ma citare tante cose che ha detto, figuriamoci, non è che cambia molto, no? Scusi, Dordo, però un'informazione, ma lei è con Maroni? Com'è? Lei è con Maroni? No, io sono con la Lega. Non con sì, Maroni. Ho capito, ma lei è maroniano? Ma questa è una distinzione che fate voi. Ah, la facciamo noi. Esistono correnti nella Lega. Beh, cioè, non esistono correnti forse nella sua testa, ma insomma nella realtà esistevano i maroniani, esistevano quelli che stavano con quell'altro, con Gobbo per esempio. Ma scusi, ma sono friulani questi? No, io ma che c'è? Friulano. In Friuli, allora, lei con chi sta? Con chi sta in Friuli? Con Maroni o con la Lega? Vabbè, ma questa è una risposta scontata, Dordolo. Sì, ma non c'è altro, io non è che abbia, capisce? Non è che preferisco uno all'altro, io condivido il pensiero del mio partito, gli ideali del mio partito. Ma il 2 giugno lei che fa? Come festeggia qualcosa il 2 giugno? Il 2 giugno? Sì. Ma io il 2 giugno i soldi li darei ai terremotati, invece di fare la parata. Ma lei cosa fa il 2 giugno? Niente, non festeggia, per lei non è una festa quella della Repubblica, no? Ma cos'è, sabato? È un prefestivo, se ne frega lei, insomma, sostanzialmente. Ma perché di cosa? Della festa della Repubblica. Del 2 giugno. Ah, guardi, per me essere italiano è secondario ad essere friulano. Io prima di tutto sono friulano. E forse italiano. Ma forse. Forse per caso, perché sa, noi abbiamo i confini così vicini che magari solo per sbaglio. Sì, solo per sbaglio italiano. Sì, forse. Ma la bandiera italiana lei l'ha mai tenuta dentro casa? Sì, nell'82, quando aveva vinto il mondiale. Poi? Ma avevo 16 anni però. Poi basta. Non mi sembra. No, ma io non ho particolari aversioni verso il tricolore. No. Dico solo che da Friulano, da noi, l'unità è avvenuta nel 1866. Nel 1918. Perché fino al 18 noi eravamo con l'Austria. Per cui, ed era meglio stare con l'Austria, forse. Ma non lo so, sa, in questa Europa io dico che le nazioni sono delle sovrastrutture inutili e costose. E con le sovrastrutture le macro regioni. E con le sovrastrutture inutili e costose chiudiamo per questa sera con Antonio da Milano per 10 secondi, Antonio. Buonasera. Vale. Allora, 10 secondi sono pochi. Intanto un suggerimento, credo che dovreste rispettare di più tutti coloro che intervengono e gli ascoltatori, perché voi ci siete anche grazie a loro, e invece continuate. Stasera hanno chiamato una decina di pazzi, ora a questo punto comincio ad avere il dubbio chi è il pazzo. Insomma. Intanto la sto rispettando perché la lascio parlare, però dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani alle 18:30. Allora ci sta anche l'esultanza per il Formigoni Gay, ma è una cosa pazzesca. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.